all'idea di quel metallo forte il vuoto con i fosfere. Un vulcano la mia mente comincia a divertarsi all'idea di quel metallo. Un vulcano la mia mente incomincia a divertarsi, sì, all'idea di quel metallo. Un vulcano la mia mente incomincia a diventare. Un vulcano incomincia a diventare. Vediamo di quel metallo. Vai, che effetto, quel che effetto sorprendente. E del vulcano della tua mente. Qualche mosso singolare. E del vulcano della tua mente. Qualche mosso singolare. Sì, sì, del vulcano della tua mente. Voi dovreste travestirvi per esempio da soldato. Da soldato? Sì, signore. Da soldato? E che si fa? Che si fa? Che si fa? Oggi arriva il reggimento. E mio amico il colonnello, e mio amico il colonnello. Va bene. Ma e poi? Aspetto. Della loggia il col biglietto. Quella porta sapeva. Che ne dite, mio signore? E non mi pare, ha trovato. Che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che invenzione, che Thank you. 15, a mano manca, 4 gradini, facciata bianca, 5 parrucche nella vetrina, sopra un cartello, o mattatina, o mesto in stero, a manca manco, 3 la sedia, una lanterna, la stanza fallo, mi troverà, sopra un parrucche nella vetrina, sul cartello, o mattatina, macchina azzurra, la materna, la carizzeria, la lanterna. Senza ballo, la senza ballo, la senza ballo mi troverà. 5 parrucche, una lanterna, la senza ballo mi troverà. Ho ben capito. Or vada presto. Tu guarda bene. Io penso l'arresto. Di te mi fido. Oh, la tengo. Mio caro figaro. Intendo, intendo. Ora c'era amico. La borsa piena. Di quel che vuoi, ma il resto poi. Oh, non si dubbi, di te me ne andrò. Di te ne appena, appena andrò. Ma che l'amore, la chiama sento. Che le ami tu, e li consento. D'arto rinsolito, questa m'attende. Che l'ora già viene. Count offers Figaro a reward if he'll lend his aid in helping the Count win Rosina. Figaro, always ready with a scheme, suggests that the Count disguise himself as a drunken soldier and enter the doctor's home under the prelude, the pretense of having been billeted there. And as the curtains came together, Figaro was seen knocking on the door of Dr. Bartolo's house, but it is the servant who in answer comes to the balcony window instead of Rosina. Here are the three principals bowing. Robert Merrill as Figaro, Cesare Villetti as the Count, and George Cichanovsky as Fiorello. Mr. Cichanovsky in his black cape and hat. As Fiorello, he's making a solo bow now. Cesare Villetti in his brown leggings, a dark coat and breeches lined with dull blue ribbon, red tie, and borders of lines of blue on the coat and trousers, and here is Robert Merrill as Figaro bowing in his yellow costume. Dark, broad, brown braid down the sides of his tight-fitting yellow breeches and wearing a colorful vest and pink stockings. In a little while, we return to Gioacchino Rossini's opera, The Barber of Seville, but now it's intermission time here at the Metropolitan Opera House in New York City. These all-afternoon Metropolitan Opera broadcasts are brought to you every Saturday by the Texas Company.